Ci siamo, ci siamo, ci siamo, siamo. Duncan McKay, era inverno delle orme, scrive Rory. Meglio quello dell'ottavo battaglione. Non so cosa, il brano di prima. Forse. Forse. Insomma. Ma come? Calexico, no, io preferisco Calexico, non c'è dubbio. Calexico, non c'è dubbio. Allora, Vasquez, buonasera, ben arrivato, come va? Tutto bene, buonasera. Che voce imperiosa. Calda. Sei tornato dal zoo di Berlino. Esatto, sono tornato dal festival di Berlino con, come tu ben sai, con un volo in cui eravamo praticamente io, i fratelli Taviani, l'Orso d'Oro e Nanni Moretti. Ma veramente, ho visto le foto. Posso è tutto vero, perché mi hanno seguito, capito? Non mi hanno seguito all'aeroporto, sono venuti a salire sul volo con me. Vabbè, io poi non ho fatto storia perché sono un signore. Bravo, bravo, hai fatto bene. Bisogna sempre comportarsi di con classe. Sono ragazzi. Oh, sarete la partita martedì. Martedì io ho pensato di fare. Abbiamo fatto la scorsa volta il 1970 e ci siamo detti con Anna: facciamo un'altra cosa, proviamo a fare una cosa. Mi è venuto in mente il 1977. Anno mitico. Anno mitico, ma è una settimana che ci sto lavorando, sto diventando pazzo. È troppo mitico, c'è troppa roba, troppe cose, troppi accadimenti. E tu selezionerai soggettivamente, cioè le cose che tu ritieni o che ti sono piaciute di più, o tentando una cosa oggettiva? Beh, cercherò di essere il più oggettivo possibile, okay. Più oggettivo possibile, anche dal punto di vista sociale, insomma, di cose ne sono accadute veramente tantissime. Avremo un sacco di ospiti, ci sarà Marco Clementi a tenerci compagnia, sarà parte integrante della puntata, anzi delle due puntate. Anna naturalmente sarà qui con noi e poi sarai tu ospite al telefono per pochi minuti. Voglio dire pochi minuti perché io ho fretta, perché c'ho un piano di impegni, devo andare. E poi insomma anche altri ospiti, parleremo di quello che accadde nel 1977, e insomma sarà una, insomma, due belle puntate, speriamo due, forse tre, non lo so, però è davvero complesso e ardita la cosa, è veramente ardita. Abbastanza, sì. Musicalmente parlando, insomma, abbastanza devi fare una scelta, perché poi tra le tante cose che sono uscite. Ma affronterai la scena italiana parimenti alla scena internazionale? No, assolutamente. No. La scena italiana nel 77 era pressoché inesistente. Ah, ok. A parte qualche rarissimo episodio, ma era pressoché inesistente. Affronteremo in parte la scena italiana del pre-77, quindi ma veramente toccandola appena, il progressive italiano, ma insomma toccandola appena, per fare proprio come dire, da traino e da gancio nel concepimento di quello che è successo nel 77, perché è successo, e capire quello che c'era prima e quindi conseguentemente capire quello, certo, che certo. Il contesto storico, esatto. Mi hai tolto le parole di bocca. Allora, invece, come ci avevi detto al telefono qualche venerdì scorso, avevi dato proprio il vincitore. Perché io certe cose, sai, quando uno ha l'esperienza, le sente nell'aria, vedo, non c'è bisogno poi di aspettare le premiazioni. No, il punto è che era abbastanza evidente che avrebbero vinto i fratelli Taviani, perché era un festival di Berlino di quest'anno, ha regalato un concorso abbastanza povero, non c'era nulla di veramente, veramente devastante, nulla che ci avesse colpito, non parlo solo per me, ma insomma poi lì tasto anche gli umori del resto della folla, del resto delle persone, non c'era nulla di veramente interessante, se non questo film di Taviani, che è molto bello, devo dire. È un film che racconta, a raccontarlo non sembra bello, neanche a me sembrava bello a leggere la trama. Racconta il Giulio Cesare di Shakespeare messo in scena dai carcerati veri. Detto così è molto brutto. In realtà non è quei film in cui si vede uno spettacolo che viene allestito. Più vai avanti, inizia, diciamo, con come i provini, come li hanno selezionati, e quindi ci sono questi carcerati che si presentano, alcuni veri, i carcerati veri, tutto girato nel carcere. A Re Bibbia. Esatto, tutti condannati a morte, tra l'altro. Cioè, scusami. A morte. Sì, scusa. grazie a Dio non c'è più la pena di morte. A vita, scusate. Tutti fine pena mai, che si presentano e dicono i loro reati e sono terribili, quindi insomma sono anche figure con cui non è facile empatizzare, però poi andando avanti Questo Giulio Cesare prende molto piede, si fa sempre vedere loro che provano, che quindi insomma recitano palesemente le battute, alle volte si dicono ok proviamo quella scena lì e la provano, però sempre di più non sembra una finzione, sempre di più sembra vero, le location cominciano a diventare, a sembrare quelle del Giulio Cesare effettivo, insomma è veramente una cosa molto coinvolgente, a me è piaciuto parecchio e penso che abbia possa avere, contrariamente a tanti altri titoli dei Fratelli Taviani, anche un appeal più commerciale. E c'era Nanni Moretti perché lo distribuirà. Nanni Moretti sarà la casa di distribuzione sua che lo metterà. Nanni, il caro Nanni, è venuto Nanni. Allora invece passiamo ai... Di, prego. No, volevo sapere del film tedesco perché ho letto che c'è stata un po' di maretta, no? Nel senso che i tedeschi davano per vincitore il loro film, adesso non so assolutamente. E c'erano due, erano quello di Ursula Meyer e un altro che si chiamava Barbara, che era terribile. E quindi poi c'è stato un po' di sono stati, sì, un po', guarda, piccati, secondo da questa me, cosa, un festival di vecchi. I tedeschi hanno proprio rotto le palle, mamma mia. Io devo dire, credo poco un giudizio a queste, cioè, sono polemiche vere che l'ho letta anch'io, ma ci credo sempre poco, perché comunque un festival ha più che altro interesse a sembrare internazionale. Tutti quanti si vergognano un po' quando premiano film del proprio paese. Però poi c'è sempre quel giornalista che scrive: ah, ma anche noi lo facciamo col Festival di Venezia, eh? Cioè, quello che ti chiede: ah, ma dovrebbe vincere un film italiano. Insomma. Vabbè, quindi questo film tedesco non era, no, così, guarda, degno proprio, di no, nota. Non era, era veramente uno scandalo. Cioè, i tedeschi sono, diciamo, sono basta, pippette a fare film, eh. Erano fortissimi negli anni 20-30, fortissimi, vabbè, e poi hanno avuto un altro basta. Momento negli anni 70 con Wenders, Herzog, però hanno vissuto di momenti, diciamo. Grande Herzog, un grande, guarda, veramente c'era il suo film, c'era il suo ultimo film straordinario, non l'ho potuto intervistare perché diceva che lui non faceva interviste e voleva parlare con nessuno. Grandissimo, un cineasta incredibile. Va bene, ma veniamo ai cinemi e ai film che usciranno questa settimana. Che tra l'altro, ricordiamolo, domani sera, no, sì, dopo domani sera ci sono gli Oscars. Ah, è vero. Mica chi vince, secondo te? Vince The Artist, il film finto muto, diciamo, francese, che era stato presentato a Cannes, che è uscito qua in Italia qualche mese fa. È un film che è molto piaciuto in America, che racconta una storia tipo Cantando sotto la pioggia unito a È nata una stella, quelle storie in cui c'è un attore molto affermato che aiuta a far affermare un'attricetta e mentre lei si afferma lui invece la sua carriera va in disastro. È un film fatto muto, come i film muti degli anni 20. In realtà sì, non ci sono le parole, non ci sono i dialoghi, ma le immagini sono moderne, insomma non ha quel ritmo dei film muti. Ma come, ecco, mai muto? È così, una cosa per divertirsi, è un film che fa molto ridere, tra l'altro, ridere, piangere, sai, quelle commedie un po' amare, e era per fare veramente, per fare qualcosa di diverso. Tipo Riso Amaro. Era proprio per fare qualcosa di diverso ed è un esperimento che secondo me è riuscito, però è stato anche un po' troppo sopravvalutato. Adesso addirittura probabilmente vincerà un sacco di cose agli Oscar, vincerà film, regia, attore, vincerà un po' di tutto. Gli americani? Gli è piaciuto un sacco. No, sta prendendo il secchio, non vincerà nulla. Degli americani, secondo me, si dovrebbe distinguere. Non mi ricordo più chi era che doveva vincere gli americani. Mamma mia. Dovrebbe figurare bene. Ma chi era? Chi avevo detto? Ma quindi è questo. Hugh Cabret. No, secondo me figura bene The Descent, Paradiso Amaro, quel film con George Clooney, quello sempre Riso Amaro, esatto, per tornare. E secondo me dovrebbe vincere, non so se lo faranno vincere perché ha vinto già tanto, quindi è difficile, ma dovrebbe vincere Dante Ferretti, italiano delle scenografie di Ugo Cabret. Lui, sono in due, lui e Francesca Lo Schiavo, che fanno, lui fa le scenografie, nel senso costruisce i set proprio, e Francesca Lo Schiavo, che sono bellissimi, devo dire, sono bellissimi. Francesca Lo Schiavo fa gli interni, quindi fa il design interno. Hanno già vinto per The Aviator, hanno già vinto anche per Casino, insomma hanno vinto per parecchi film. Quest'anno dovrebbero rivincere perché è straordinario, però non è detto che ce la facciano, perché insomma è sempre difficile vincerne tre. Va bene, allora, film usciti questa settimana, che usciranno questa settimana, cioè questa sera, oggi. Allora, oggi esatto esce un film che ti potrei consigliare. Ah. Perché visto che ti è piaciuto molto Benvenuti al Sud, che era il remake del film francese di maggior incasso, questa settimana esce il secondo più grande incasso della storia del cinema francese. Si chiama Quasi Amici, è quel film che c'è nello sfondo di questa pagina che hai. Sì. E racconta, è una commedia, anche se è una commedia amara, anche questa è una commedia amara. Quindi il riso amaro, proprio. Riso amaro alla francese. Ci si rimpone. In cui praticamente si racconta un grande classico. Un uomo ricco, bianco e super inserito nella società, nella politica, ma paraplegico. prende come assistente personale, quindi la persona che lo lava, lo porta in giro, anche lo sposta, che lui proprio non si muove, quindi lo sposta, un nero povero delle periferie, ma pieno di vita, molto vitale, molto il film è tratto da una storia vera. E non, innanzitutto, nonostante questa trama sia abbastanza già vista, non sembra un film già visto. Comunque, per come si svolge, per le dinamiche che succedono, e questo già è un pregio. E poi ha un che di autenticamente divertente. E soprattutto lui, il nero, è un attore molto bravo e molto ben utilizzato. È veramente divertente, è un piacere vederlo, insomma. È veramente un personaggio, un corpo attoriale molto forte. E insomma, secondo me è un film che mi sento di consigliare. Si chiama Quasi Amici. Dante Ferretti, noto fratello di René Ferretti, scrive Giovanni. Ma se adesso farò un'altra cosa, guarda, in omaggio a Giovanni, guarda, e che non si dica che, sì. In omaggio a Giovanni, mi approprierò di una sua notizia e farò finta che sia mia, cioè 6 nuove news su il prossimo James Bond. Giovanni ha riportato uno scoop di un'altra persona, che potrei dire che sono io ma non ero io, che sono 6 notizie sul film nuovo di James Bond che adesso stanno girando. Diciamole tutti e 6. Io. Quindi non facciamole dire a lui, ma facciamole dire a me, che sono molto molto meglio. Prendiamoci tutti i meriti. Allora, innanzitutto possiamo dire che è confermato ed è sicuro che i cattivi saranno Ralph Fiennes e Javier Bardem, e avranno anche un ruolo molto importante, saranno dei cattivi molto importanti. Ci sarà una scena in cui ci sarà un attacco al quartier generale dell'MI6, che verrà attaccato proprio. La macchina di James Bond sarà la macchina di Goldfinger e di Thunderbolt, cioè la Aston Martin DB5. La vecchia Aston Martin. Esatto. Guarda la foto che ha messo Giovanni. A mappa, anche con la medesima targa. E come mai? È un ritorno al passato, piena bravi, di gadget. Bravi. Questo sarà il nuovo Q, cioè Q sarà un attore giovane. Ah, non c'è più quello. Non c'era più il grandissimo John Cleese. Mi piaceva molto quando faceva Q, però vabbè. La voce che accompagnerà i titoli di testa, che farà la musica, sarà Adele. Mamma mia, Adele, cioè, perché io comunque, quando la ascoltai all'epoca di 19, che insomma non la conosceva nessuno, per carità, ma adesso la trovi ovunque, c'è una cosa pazzesca sta ragazza, per carità, brava, ma cioè basta. Ti satura. Sì, mamma. Poi, mia. Insomma, la prima pagina del poker, video poker, c'è lei. Per dire una cosa che tu non fai, comunque ti hanno detto. Sì, e comunque chi fa le musiche dei film di Bond poi va in miseria, un disastro, cioè portano è una vero, sfiga clamorosa. Portagliela. E ultima, si sapeva che sarebbero andati in Turchia a girare, molte scene saranno in Turchia, quindi adesso stanno andando lì a fare delle scene e ci sarà una scena, pare almeno Giovanni dà per certo, che ci sarà una scena in cui Daniel Craig, o meglio la sua controfigura, salterà con una moto su un convoglio ferroviario, che è una cosa che fece già Michelle Yeoh in un film, in Super Cop 3 mi sembra, un film di Jackie Chan, che è sempre impressionante. Adesso non so se il convoglio sarà in movimento o no, come era per Michelle Yeoh, però insomma è uno di quegli stunt che sono diventati un classico del cinema d'azione. Uscirà nel 2013. Ma guarda, secondo me ce la possono fare anche per film 2012. Se stanno ora alle riprese, 5 mesi di post-produzione, ma anche meno, possono fare anche 4. Chiamo Daniel, va. Chiamo un attimo Daniel. Gli mandi un SMS con scritto solo sbrigate. Oh, invece vediamo la classifica dei film di questa settimana, il box office. Allora, il primo è Come bello far l'amore, ma come si dice... nello sport, non mi ricordo in quale sport, primo per un'incollatura, primo per pochissimo, Come bello far l'amore, che è il nuovo film cavalli di... ai cavalli primo di... ah giusto ai cavalli, giusto. Dicevo, primo per un'incollatura, Come bello far l'amore di Fausto Brizzi, che è il nuovo film appunto di Brizzi in 3D, e quindi ha avuto un po' di botta dal 3D, che è un biglietto che costa chiaramente di più, quindi fa incassare di più. Secondo, con Tua grande gioia, In Time, un film che mi hai detto di esserti piaciuto tanto. Visto. Molto molto bello, cioè, mi hai detto anche che si vedeva bene nel cinema in cui sei stato. Non fare lo spirito. Era proiettato bene. Sì, c'era un grande proiezionista. No, l'idea è molto carina, cioè molto bella, insomma. È un film di cui non abbiamo voluto parlare perché io ero a Berlino, ma è un film di Andrew Niccol che molti ricorderanno per Gattaca, un film di fantascienza che è rimasto nel cuore di tanti e parte ha uno spunto straordinario in Time, cioè che nel futuro l'umanità viene alterata geneticamente per il quale può rimanere per sempre giovane. Ferma ai 25 diciamo anni. Diciamo che i soldi diventano il tempo. Esatto, siccome tu puoi, si compra qualunque puoi essere cosa giovane con il per tempo. Siccome puoi essere giovane per sempre, ti fermi a 25 anni, si blocca il tuo sviluppo e rimane così. Da quel momento in poi, però, il tempo diventa limitato. Tu rimani giovane, ma puoi anche morire il giorno dopo. E la maniera No, muori a 25 anni. Se non. No, ti scatta un anno di bonus ti scatta a 25 anni. E diciamo, e muori di lì a un anno. Il modo per continuare a vivere è guadagnare. Il tempo diventa moneta, quindi lavorando si guadagnano ore, minuti e li si spende comprando cose. Un biglietto dell'autobus costa un'ora, un appartamento costa degli anni e in questo mondo del futuro, in questa maniera, chiaramente si creano degli equilibri completamente diversi, cioè i grandi magnati, le persone ricchissime, gente che ha dentro di sé anni, le banche anche, secoli, è pronta a vivere per secoli e secoli e secoli e tutti quanti portano la propria data di scadenza, come dire, un conto alla rovescia del tempo che gli rimane impresso sul braccio come i numeri di Auschwitz, diciamo, proprio sull'avambraccio e si scambiano il tempo dandosi la mano, insomma, e questo instaura tutte le dinamiche. Il film parte dall'assunto che il protagonista, che è un poveraccio, che quindi veramente vive alla giornata, cioè che ogni giorno ha una giornata di tempo e quindi deve andare a lavorare per poter sopravvivere, di colpo, incontrando un mega miliardario, riceve un centinaio d'anni e quindi si ritrova ricco tutto di colpo, ha accesso a tutta un'altra parte della società come la conosciamo, quel mondo dei ricchi, e cercherà di, come in tutti i film di fantascienza distopica, cercherà di sovvertire l'ordine, di riportare una più autentica spiritualità, insomma quello che si fa in questo tipo di film. Lo spunto è interessantissimo, purtroppo il film non riesce poi a andare veramente a concretizzare tutto. Il finale si perde, però l'idea è veramente veramente c'è quel pezzo fatta. Di lui con la madre che corrono uno verso l'altro all'inizio, bellissimo, che è un gran pezzo, bellissimo. Un gran pezzo. E qui si creano... ricorda quel film lì ricorda Riso Amaro. Proprio quella scena. E si creano quelle dinamiche strane per cui madre e figlio sembrano avere la stessa età, perché sono entrambi fermi a 25 anni, gli ultracentenari sono sempre fermi a 25 anni, quindi sono tutti eternamente giovani, che poi è una efficacissima metafora della società attuale, dove non solo la chirurgia plastica ma anche lo stile di vita e il modo in cui si cerca di essere eternamente giovani crea una società che ha tutta la stessa età, i giovani sembrano vecchi, i vecchi sembrano giovani, e purtroppo però come dicevamo non riesce poi i poveri corrono sempre, i ricchi vanno lentamente, esatto, perché giusto. I poveri non hanno tempo e quindi devono fare le cose più in fretta. È vero, quando loro scappano e si fingono ricchi, lei dice a lui non correre con la macchina che solo i poveri corrono. È vero, straordinaria quella metafora, ma dimenticata. Questo è uscito la settimana scorsa, quindi è già da una settimana nei cinema. Invece questa settimana esce un film veramente veramente curioso che è passato anche al Festival di Berlino. Si chiama Knockout, resa dei conti. È un film pieno di attoroni, ci sta Ewan McGregor, ci sta Michael Fassbender, Antonio Banderas, Michael Douglas, Channing Tatum, e nessuno di questi è protagonista. Cioè è un film pieno di tutti questi attori, ma la protagonista è una donna. Una donna che mena, ma non sai, che ne so, Angelina Jolie che la fanno menare. No, una donna che mena per davvero, una campionessa di arti marziali miste. Una bestia, che però, incidentalmente, è anche una bella donna con un fisico normale da bella donna, cioè non ha un fisico sformato dallo sport. Si chiama Gina Carano, lei ha di origine italiana, chiaramente, come dice il nome, e fa questo film in cui si racconta la classica trama da film d'azione e spionaggio, cioè un agente segreto della CIA, fortissimo come lei, che mandata nelle missioni peggiori, addestrata dai Marine, terribile, diventa pericoloso a un certo punto e la CIA decide di farlo fuori. Quindi mandano uno a farla fuori, che non ci riuscirà, lei capisce che sta succedendo e risale tutta la catena vendicandosi. Il bello di questo film non è tanto in questa trama, che è molto classica, però lascia spunto per ottima azione, ma il fatto che avendo a disposizione una come Gina Carano, cioè una che per davvero è capace di fare quello che fa nel film, cioè di menare a livelli altissimi, è una vera atleta, Le scene d'azione sono tutte riprese con quasi con macchina fissa, con poco montaggio, da lontano, insomma, da figura intera, ed è un piacere vedere. È come Jackie Chan, no? Quando vedi Jackie Chan che fa delle cose, è un piacere vederlo, insomma, veramente. E poi appunto c'è questa donna che le dà di sante ragioni a Ewan McGregor, a Michael Fassbender, che accende il Tatum. Bravo. È un film veramente interessante, divertente, di Steven Soderbergh. Ripeto, si chiama Knockout. Nel nuovo film di Stallone c'è Chuck Norris. Sei sicuro? Io questa cosa non l'ho sentita, sei sicuro? Sì, c'è Chuck Norris. Vado a controllare. Controlla. Tu parli di The Expendables 2. Esatto. Ho dato una notizia iper bombissima. C'è il mitico. Vabbè, sarebbe veramente incommensurabile, leggendario Chuck Norris. Hai ragione. Porca miseria, siamo veramente, sento puzza di leggenda. Questo, guarda bene tutti quelli che ci sono lì. Che miseria, sì, no, ho visto, ci sono quelli dell'altra volta più altri. Stavolta qui con Chuck. Che miseria. Cioè, con lui vinci per forza. Cioè, con lui vinci e basta. Va bene. Allora, altri film invece? Altri film in uscita questa settimana che sono valevoli una menzione. Sai che non ce ne sono di valore, cioè esce per esempio qualcosa di straordinario, che è un film secondo me da evitare. Per esempio è un film che racconta una storia vera, un film americano che racconta di come negli anni 80 l'intero paese, gli interi Stati Uniti si bloccarono appresso alla storia di tre balene che non riuscivano a compiere la migrazione perché erano bloccate nel ghiaccio, e tutto il paese andò appresso a questa cosa. Disoccupazione, come si sente a vivere alle spalle degli altri? Io bene, lei? Pensa che potrebbe essere capace di lavorare? Veramente spiritoso. Talmente spiritoso che la prendo in prova per un mese. Non reggerà due settimane. Uscire dal pazzesco. Allora abbiamo finito di giocare. Non so niente. E la gonna non ce l'ha? No, quelle sono calze. Questo era quasi Amici, esatto. Vabbè, ci siamo. Dicevo, qualcosa di straordinario è questo film su questo fatto vero che catalizzò l'America mediaticamente. È un film con Drew Barrymore abbastanza ordinario. È un film che potreste vedere la domenica in televisione verso le 3 del pomeriggio. Insomma, ah, una cosa stai molto. Lì per dormire. Che dici che pure che me ne perdo 20 minuti va bene uguale, insomma. Poi che esce La scomparsa di Patò, che è il primo film tratto da un'opera di Camilleri e che sembra veramente una fiction. Anche questo, insomma, ve lo sconsiglierei. Non è una valutazione di merito sul contenuto quanto sulla forma. Insomma, potrebbe anche darvi fastidio andare al cinema e vedere qualcosa di puramente televisivo. Ma parliamo di Thelma Louise e Chantal. Cos'è? È un film che è uscito. No, quando esce? Che è uscito? Quando esce? Esce il 24/2/2012. A me non risulta. Thelma Louise e Chantal. Un road movie con protagoniste tre cinquantenni, Chantal, Gabrielle e Nelly, che vanno al matrimonio di un ex e la Rochelle. Decidono di fare il tragitto insieme. Nel corso di questo viaggio pieno di peripezie, le tre donne condivideranno momenti di gioia, di rabbia, di malinconia, di volta in volta divertenti, fragili e commoventi. Oh Madonna buona. Non l'hai visto questo capolavoro? È imperdibile comunque. È francese, sul serio? No, è americano. No, c'è Jane Birkin. C'è Jane Birkin, sì, esatto. Incredibile. Karen Jacob, che è una donna. Imperdibile, questa sera allo spettacolo delle 22:30. Vai. Però ti perdi sti film. Viaggio nell'isola misteriosa? Quello non l'ho visto perché ero a Berlino. È un film che segue Viaggio al centro della Terra 3D. Sono quei film che vengono fatti proprio per far vedere il 3D, fatti appositamente. Quindi non l'ho visto, per carità, ma posso immaginare che abbia un ottimo 3D e come era l'altro una pessima storia. Però insomma c'è Dwayne The Rock Johnson. Insomma sarà una cosa cinema americano canonico. Un blockbuster, anche se oramai sono chiusi, però sono un blockbuster canonico. Ma sono ancora aperti negli Stati Uniti i blockbuster? Ma sai che adesso ti do questa cosa che non c'entra niente, però forse c'entra. A Berlino è pieno. Cioè a Berlino la gente affitta veramente i DVD e le cose, cioè è così. Un po' perché ho un amico che vive là e mi ha detto che lì sono stretti proprio, cioè ti beccano se scarichi sostanzialmente, davvero. Fanno bene. E un po' perché funzionano, gli affitti sono molto bassi, e sono capillari, stanno ovunque. Insomma a me mi ha molto stupito perché poi non siamo più abituati a girare per una città e vedere tutti quei videoleggi, una cosa. Poi grandi. Non ce ne sono più. Esatto, da noi non ce ne sono più e anche in America non ce ne sono più, ma in America diciamo che sono schiacciati dall'offerta legale, che lì c'è. Vabbè, via cavo, pure. No, ma anche Netflix, insomma, offerta via internet legale, paghi cifre ragionevolissime e hai. Quanto costa in America un film? $3, $2? $4 in affitto, ma puoi pagare anche $20 di abbonamento mensile o meno, anche 10 a seconda poi dei pacchetti che ti fai, insomma. Beh, lì ha un senso, ma certo. Pagare qui in Italia come gli MP3, scarica un MP3 a 1,20€ e a 256K è una truffa legalizzata, veramente una truffa legalizzata. Quanto costano i film online? Vedi un po' su. No, online anche da noi costano 3-4€, su YouTube 3 definizione standard, 4€ in HD. Guarda, il servizio Ma lo affitti o te lo puoi scaricare? L'affitto vuol dire che te lo scarichi, hai 30 giorni per cominciare a vederlo, dal momento in cui cominci a vederlo hai 48 ore per finire di vederlo, dopodiché non è più visibile. E diciamo che l'offerta anche, è anche buona, perché c'è anche un buon catalogo italiano. Ho fatto qualche l'accraccati al momento ancora no, che io sappia. La cosa diciamo più scomoda di questo servizio, per avvisare subito le autorità competenti certo. La cosa scomoda del servizio è che è in download ed è molto lento, per cui comunque c'è, diciamo che devi mettere in conto 1.5 ore di download. Lo so, è infatti la cosa più pesante di questo servizio, che per il resto no, sarebbe molto buono, perché l'offerta dovrebbero dicevo, parlare buona. Con quelli di Mega Upload dai due consigli, due, hai visto che l'hanno scarcerato a lui Kim Schmitz? Ma veramente? È uscito su cauzione e adesso io credo ora sia su Marte lui, conoscendolo è andato a finire. Secondo me sta aprendo in Russia il portone del garage dove ha tutta questa batteria di server. Quindi di emergenza ha un unico grande interruttore che tira giù. Collega il cavo, immagino che collega il cavo da outlock e riparte. Invece è uscito al cinema settimana scorsa, non abbiamo potuto parlare, è un film che a me è piaciuto veramente tanto e che è in corsa per gli Oscar e qualcosa secondo me porterà a casa. È War Horse, film di Steven Spielberg, noto anche il film col cavallo, che sulla carta anche a me sembrava un possibile disastro, esatto, cioè il film col cavallo no ve prego. Invece è molto bello, perché attraverso la storia di questo cavallo che passa di padrone in padrone durante la Prima Guerra Mondiale, in realtà si raccontano le storie di tanti uomini sostanzialmente. C'è una prima parte che è straordinaria. Tu l'hai visto Un uomo tranquillo di John Ford? Sì, come no. C'è la prima parte che è Un uomo tranquillo. Ma è davvero un uomo, nel senso Spielberg l'ha ricalcato inquadratura per inquadratura. Ma con John Wayne, quello con John Wayne. Quello con John Wayne in Irlanda, nella verdeggiante Irlanda. È ambientato in uno scenario molto simile. La fotografia è veramente identica perché l'ha fatta uguale, le immagini sono le stesse. E si racconta, beh, non la stessa storia chiaramente, però in quella stessa ambientazione, con quello stesso tono e quei pregi, si racconta la prima parte della vita di questo cavallo in Irlanda. Poi chiaramente verrà preso dai militari, quindi verrà portato dai militari irlandesi in guerra, finirà di proprietà di alcuni francesi, poi finirà di proprietà dei tedeschi e in realtà non si racconta mai del cavallo, che non è interessante, ma di questi uomini. È un film, ve lo dico subito, buonista oltre ogni dire, però come dire, di un buonismo che a me piace molto, è molto accettabile, molto onesto, insomma possiamo dire che è il seguito di Febbre da cavallo. È un prequel e alla fine si scommette sulla vita e la morte del cavallo. Se può esistere un buonismo accettabile e bello, di certo è War Horse. Io mi sono anche commosso. Tu ti commuovi con qualunque cosa. Mi sono anche commosso. A proposito, un'ultima cosa mi viene in mente perché mi sono commosso. È uscito in DVD il film più bello dell'anno scorso, cioè Warrior. Film. Tu l'hai visto poi alla fine? Sì, sì, l'ho visto. Un film straordinario in cui ho pianto tutte le lacrime che mi erano rimaste da War Horse. Però devo dirti che non mi ha fatto impazzire. Mamma mia, ho trovato straordinario. Comunque è un film che sembra di botte, ma non è di botte. Come Rocky, è un film che usa le botte per parlarti di tutt'altro. Ed è molto, molto bello. Ripeto, si chiama Warrior. Hai per caso visto o hai qualche anticipazione su The Ghost Rider? Ho visto dei making e ho un amico che l'ha visto in America e quindi mi ha detto che lui non era soddisfattissimo, però non abbiamo neanche in comune troppi gusti, insomma non mi fido troppo. Vediamo. Invece non so se ne abbiamo già parlato, L'altra faccia del diavolo. Allora, ti dico questa storia. Ho visto i trailer e Aspetta, a me mesi fa l'esorcista lo puoi mettere, lo puoi mettere il trailer, perché a me mesi fa, mesi fa mi fecero vedere un film. Sai quando ti fanno vedere nei trailer la proiezione fatta ha spaventato il pubblico? Era una proiezione di quel tipo, con le telecamere puntate sul pubblico per vedere la reazione del pubblico al film di paura. Chiaramente non mi avevano detto niente, perché quando vai a queste cose non ti dicono molto, però non ho capito ancora se è questo quel film che vidi. Aspetta che devo cercarlo, eh. Perché in effetti ricordo che era su questi temi. Il nuovo trailer di Nirvana, prima clip esclusiva. Ma perché fischi troppo? Fischio io? Sì, fischi tu. Sì. In edicola con Panorama. E quindi era proprio questo, era. Lo riconosco. Sto sbroccando qui, non c'è. Devi avere pazienza. Porta pazienza, perché c'è la pubblicità. Vabbè. Va bene, questa è la clip che abbiamo preso in libreria, là, nella nostra library. Eccola. South Hartford, polizia, pronto intervento. Tre persone. Signora, qual è il problema? Sono morte tre persone. Le ho uccise. Io. Signora? Signora? Quando avevo 8 anni, mia madre ha ucciso 3 persone. La polizia è arrivata alla casa. Ha commesso questi omicidi durante un esorcismo. Un esorcismo praticato su di lei. Fu coinvolta la chiesa e lei venne trasferita all'ospedale psichiatrico Centrino a Roma. E così, eccomi qui. Cominci a chiederti, ce l'avrò nei geni? Andrò fuori di testa un giorno? Per precauzione, se diventa troppo difficile, c'è un pulsante antipanico sul muro. Maria, sono tua figlia. Sì, è quello che ho visto. Connetti, tagli. Connetti, tagli, connetti, tagli. Oh, mamma. Connetti, tagli. Connetti, tagli. Se vuoi davvero aiutare tua madre, devi capire che cos'è un esorcismo. Quindi che mi consigli? Devi vederne uno vero. Dov'è? Oh, siamo stati costretti a portarla di sotto, in cantina. Fa male? È una combinazione di scienza e religione, basato sulla mia formazione medica. Cominciamo. Isabella! Ha detto il mio nome. Ho trovato 4 voci sull'incisione. E che vuol dire? Possessione diabolica multipla. Aiutate mia madre. Analogie con nessuna forma di possessione che abbia mai visto. Mi dispiace, Isabella. Ma che sta succedendo? Che facciamo? Io non lo so! Isabella! Lascia mia madre. Esci. Brucerai. È tosto, Vasquez. Allora, sai che c'ha? I trailer sono tosti. Come tutte quelle cose che ambientano in Italia, ti viene sempre un po' da ridere, no? Perché no, poi... io pure pensavo così. Ho visto i trailer. Ti pesava il magone. Dall'esorcista che non. Stangoscia. Sì, allora, sì. È molto fatto, come vedi, con le macchine da presa a mano, video amatoriale, che è una cosa tendenza tipica dell'horror moderno. Ci ha avuto 2 o 3 momenti in cui anch'io sono zompato. Ma sulla sedia. Ma l'hai visto tutto? Sì. Ah beh, raccontalo. Io cercavo di non andare a vedere, perché ero ripreso dalle telecamere e volevo far vedere. Ma sì, certo, sono abituato a queste cose. In realtà ci ho avuto dei momenti in cui strizza, eh? In alcuni momenti devo dire sì. Io però sono un soggetto sensibile, io ho strizza con poco, diciamo. Secondo me non è un gran film, però comunque la paura la mette, ecco. Poi mi dici come finisce. Invece, scusa, mi sono dimenticato di dirti, e questo possiamo, con questo possiamo una grande chiusura. Io ieri ho visto il nuovo film di Carlo Verdone. Ah, ecco, è tornato alla grande? Aia. Sì. Sì, fino a una certa. Cioè, allora. Lo sapevo. C'è una cosa che va detta. Carlo Verdone, negli ultimi 5 anni, diciamo, ha fatto dei film particolarmente brutti. Nel senso, ma brutti tecnicamente, fatti con sciatterie, con delle location palesemente fasulle, con degli attori, non i protagonisti, ma dei ruoli secondari terribili, con un montaggio che non voglio neanche parlare, insomma, proprio sciatti. È una cosa che io personalmente imputo al fatto che lui ha cambiato produzione ed è andato con De Laurentiis, che è quello dei Cine Panettoni, e ha un po' quel look terribile. Quei colori, sì, proprio... esatto, smarmellati, sì. Terrificanti. Quest'ultimo però ha questi difetti, indubbiamente. Ci sono dei momenti che vanno, se l'hai sentito male, lo uscì. Però è divertente, se non altro. Cioè, se non altro, recupera. Meno male. Un divertimento che nel cinema di Verdone non vedevo da tanto tempo. Mi sono ammazzato dalle risate. Ci sono bravissimi. I protagonisti sono tre: lui, Marco Giallini, che è quello che in ACAB fa il poliziotto più vecchio, quello che fa il terribile nella serie di Romanzo Criminale, un attore straordinario, bravo, che il cinema ha scoperto recentemente, ma insomma è un grandissimo, e il grandissimo Pierfrancesco Favino, che come attore comico è anche più bravo secondo me che come attore drammatico, il che la dice lunga. Non mi toccare Pierfra, è un grandissimo, ma secondo me è veramente dà il massimo nelle minuzie comiche. E la trama è molto carina, perché loro sono tre che avevano un lavoro. Addirittura Verdone faceva il produttore musicale a alti livelli. L'hanno tutti quanti perso per ragioni tra il personale e la crisi economica. Adesso sono tre disperati, talmente disperati che. Ma sono amici, si conoscono? No, pur non conoscendosi, vanno a vivere insieme nella stessa casa perché non hanno una lira, non hanno veramente niente. E innanzitutto è bello questo. Perché comunque è diverso dal solito, una commedia che parla di gente veramente derelitta. È sempre una cosa, poi sempre molto divertente la gente derelitta, fin dagli anni 50 il nostro cinema è pieno di queste cose, fanno sempre molto ridere. È affrontato come Umberto D. Fa morire da ridere così. Da ammazzarsi dalle risate. Oppure come Riso Amaro, per dire. E ha degli spunti comici veramente, veramente, veramente forti. Poi sai, come spesso capita nel miglior Verdone, sono quegli spunti comici che non puoi neanche raccontare, perché non è una gag, non è una battuta. Devi aver visto il film, sono quelle, lui crea quelle situazioni che sono già comiche in sé, poi fa accadere una cosa che altrove o raccontata a voce non farebbe ridere, ma in quel momento ti ammazzi dalle risate. Senti, ma invece volevo chiederti, Dario Argento. No, lascia sta. Che no, fa? No, ha finito l'ultimo film. Cioè, non guarda, mi toccare Dario. Guarda, io ho un amore sviscerato per Dario, cioè, ma davvero è uno dei più grandi cineasti italiani di sempre. Anche per Asia, se permetti. C'è Asia anche nell'ultimo. Anche se adesso è mamma, è sposata felicemente. C'è Asia nell'ultimo. Spero di Quest'ultimo, questo amore. Quest'ultimo può essere veramente il peggiore di tutta la sua carriera. Io sono preoccupatissimo. Ma l'hai visto? No, ma metti il trailer. No, una cosa. Il trailer? Sì, si chiama Dracula 3D. Come? Sì, guarda. È una cosa. Io guarda, spero. Mi dispiace 3D. Anche di avere questo pregiudizio negativo. E spero veramente di sbagliarmi. Lo spero tanto. Però quello che abbiamo visto fino adesso, unito a quest'ultimo periodo poco felice della carriera di Argento, mi fanno veramente pensare al peggio. È un film, come dice il titolo, in tre dimensioni. Lui si è voluto misurare con le tre dimensioni dalle interviste che ha fatto, da quello che sostiene. Anzi, lui dice che è venuto alla grande il 3D e che è molto spaventoso perché è in 3D. Questo è il trailer ufficiale, sì. Mi sa che poi forse anche il trailer ufficiale non ha gli effetti speciali finiti, ma lo dicono, c'è scritto. There was a time when at the fall of the sun, c'è Rutger Hauer, darkness of esatto, night. Blade Runner anche. Nothing could stop its thirst for blood. Nothing and no one dared to oppose the Lord of Darkness. No one even dared to pronounce his name. Because it was Dracula. Il mio Dracula sarà un film, penso, pieno di sentimento, perché Dracula è anche un sentimentale. Bravo Dario, bravo. Ama. Ho già l'intervista nel trailer. Molto, ama molto. E quindi elimina la donna che lui ama disperatamente, più di ogni altra cosa, per la quale si sacrifica poi. Sì, mi ha sempre affascinato il personaggio di Dracula. Non fanno vedere nulla. No, qualcosa si vede poi a un certo punto. A un certo punto. I piccoli capolavori sono anche legati di vitalità, erano film importanti, veramente. Il film verrà girato in 3D, la tecnologia è migliorata moltissimo dai primi film 3D di 2-3 anni fa e anche dalla tecnologia 3D dei cartoni animati. Penso che. Ah, tutto girato a Cinecittà? No, Cinecittà è Ungheria, molto in Ungheria. Macchine, dove si possa muovere la scena in modo veramente forte, sicuro. E poi appunto io mi fiderò molto di questa nuova tecnologia, perché Io sono appassionato di tecnologie. Questa nuova penso che sia molto, molto interessante. Per gli effetti speciali userò la computer grafica e molti effetti fatti proprio statici, proprio fatti dal vero, sia al passo con, ma non è il tagliato, con le nuove tecnologie, con i nuovi. Forse è questo, aspetta. Vediamo se riusciamo. No, mi sa che questa è un'altra. Non c'entra niente. No. Sei in Dracula. Insomma, è un film coprodotto con l'Ungheria, in cui ci sono, come dicevo, Rutger Hauer e Sargento. È un film che da quello che ho visto finora è molto audace. E per questo io temo tantissimo, perché veramente qui come niente si rischia brutto. Comunque l'uscita non è ancora fissata, dovrebbe essere nel 2012, ma non c'è un mese, non c'è ancora un... So che le riprese sono finite prima dell'estate, quindi abbiamo un Van Helsing essere... 2 che sta per uscire, però attenzione. E ne sentivamo il bisogno. Io sì, a me è piaciuto tantissimo. Sei un fan del primo? Io sì. Grazie a tutti e a tutti, a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo momento. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola raccoglie mesugo. Grazie a tutti gli emigrati che ci stanno ritrovando, e questo mi fa molto molto piacere. È straordinario, è bellissimo ritrovarli. Alla spicciolata. E piano piano tornano tutti, tutti, un sacco di gente. Forse tutti no, ma possiamo dire migliori. Bravo. Mi è piaciuta questa cosa qui. It is a price. E ovviamente vi aspettiamo domani al Big Bang, Top of the Rock, free entry con tessera annuale dalle 10. Siamo tutti lì, quindi non mancate. 10:30. No, 10, anzi, 9:30-10. Una cosetta. Un dolce, una mazza caffè. Tu sarai dei nostri, immagino, domani sera. Io sono in montagna. Lo so, guarda, non fare quella faccia, non me lo dire a me. In montagna. Come se mi andasse. Però. In montagna. Se avessi detto al mare, dico, vabbè. In montagna non è nessuna giustificazione. Mia nonna diceva sempre: ma cosa vai a fare in montagna? Si cade. brava nonna, vedi nonna. Io ho fatto una promessa tempo fa che ora mi si è ritorta contro e devo andare in montagna. Brutta, perché sono un uomo di parola. Perché sono un uomo di parola. Su certe cose no, sulla nuova montagna. No. Va bene, grazie a tutti e a tutti. Vi lasciamo con i Baba Muntai Misti, che sono appena arrivati, e a loro dedichiamo questo brano con cui chiudiamo questo spazio. A martedì con il 1977. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Saracca.